Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Non sparate sul notaio. Testamento, eh? Ah, testamento. Bene, allora. Ma mi dica la verità, mi guardi negli occhi, da uomo a uomo. Sì? Lei, dico lei, prima persona, è proprio notaio, no? Come no? Abusivo. Sono notaio. Abusivo. Ma che abusivo? Lei è notaio. Sono notaio. Con la laurea? Con la laurea. Adesso si dice laurea? No, si è sempre detto così. Stasera il notaio arriva da Scotland Yard. Ho cercato di adeguarmi, anche perché il notariato anglosassone sta avvicinandosi al notariato latino e io mi attrezzo. E io sarò pronto a darvi tutte le spiegazioni, a sciogliervi ogni riserva. Dite. E c'è l'ufficio, no? Ho l'ufficio, un antichissimo ufficio, dal mio bisnonno. Di padre in figlio siamo arrivati a me. Ti si informi un po' chi è il notaio Cocozza? Cocozza. Ma io ho conosciuto suo figlio. Mio figlio? Sì, Cocozziello. Se volete adottare a distanza il notaio Pocaterra, potete farlo. Il disegno di legge concorrenza coinvolge, avete capito, anche i notai. Gabriele Noto, vicepresidente del Consiglio Nazionale del Notariato. Dunque il cittadino in qualche modo vi vede abbastanza come una casta privilegiata che adesso protesta perché vi vogliono togliere i privilegi. Lei cosa risponde? Ma io rispondo che il notario del 2015 è un notaio telematico, dotato di una piattaforma tecnologica all'avanguardia, presente nella società, con servizi al cittadino che portano a risparmio e sicurezza e propositivo verso lo Stato. Vabbè, lo spot è bello. Senta, molti vedono questo disegno di legge come qualcosa che fa giustizia, però che apre il mercato, che vi mette in concorrenza con gli avvocati. Insomma, si apre questa concorrenza, non è un bene? La concorrenza non c'entra, perché contestiamo noi in realtà solo gli articoli che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, sì, e l'equilibrio del mercato. Senta, però, dottor Noto, voi avete anche detto che gli avvocati non avrebbero le caratteristiche per garantire i clienti, ma insomma... Ma in realtà il governo sta spacciando per concorrenza una cosa che la concorrenza non ha niente a che fare, perché quando si mischiano nello stesso mercato professionalità diverse, la concorrenza non c'entra niente. È come se per combattere, non so, la delinquenza e nell'ordine pubblico, domani mattina alle guardie magari private venisse dato lo status di carabiniere. Il pubblico ufficiale è una cosa, il difensore di parte è un'altra. Senta, esattamente, cosa contestate del decreto legge che è figlio in realtà delle indicazioni dell'antitrust, quindi non c'è niente di straordinario? Beh, intanto l'antitrust ha suggerito dei punti che sono contenuti nei primi due articoli che concernono i notai. E noi questi, ci tengo a precisarlo, non li contestiamo, perché il notariato ha fatto un grande percorso di apertura. Ecco, ma perché vi spaventa allora così tanto la sottrazione delle stipule dei passaggi immobiliari sotto i 100.000 euro di valore catastale a uso non abitativo? Perché avete così tanta, vi spaventa così tanto? Cosa temete di perdere? Ci spaventa lo squilibrio del mercato, perché in assenza di un'autorità indipendente ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie B e possibilmente anche cittadini di serie Z, cose che in questo momento il notariato con la sua attività indipendente da parte dello Stato nei confronti di tutto tende ad evitare. Quindi è lo squilibrio del mercato che ci spaventa. Senta, notaio Noto, voi contestate soprattutto le norme che riguardano l'immobiliare e il societario, cioè praticamente contestate tutto. Da una parte dice sì, l'antitrust ha ragione, poi però contestate tutto. Ma noi in realtà non è che contestiamo, noi vogliamo informare i cittadini su quella che è la situazione, perché a perdere da questa posizione di confusione saranno i cittadini in termini di parità ed eguaglianza. Noi stiamo importando una parte del sistema anglosassone senza avere bilanciamento del sistema anglosassone. E quindi noi importiamo il virus senza avere l'antidoto. Cioè, qual è il virus? Ma qual è il virus che importate? Quello della concorrenza con le banche più che con gli avvocati? Gli avvocati in questo provvedimento non sono considerati attori, sono considerati strumenti. Quindi noi in realtà, come ripeto, importiamo, scimmiottiamo il sistema anglosassone senza avere i bilanciamenti di un sistema dove per in primo luogo c'è una giustizia che funziona. In America ci sono stati 12% di frodi su monte mutui subprime, 4 Vabbè. Milioni di cittadini senza casa e 166 miliardi di dollari passeggiati sì, dalle banche come risarcimento. Non è che con i notai le cose non sarebbero andate così. Perché le banche non potrebbero offrire servizi uguali garantiti a un minor costo? Perché non sono un'autorità indipendente. se un soggetto contrae con un altro soggetto senza avere un'assistenza di parte, il mercato si squilibra. Però, notaio noto, esistono molti casi di transazioni in molte regioni italiane garantite da notai che poi si sono rivelate copertura di interessi criminali. Voi come li scoprite, li colpite, le vostre mele marce? Perché le mele marce purtroppo ci sono dappertutto e non basta essere terzi per non esserlo. Partiamo anche dalle notizie positive: il 91% delle segnalazioni antiriciclaggio tra tutti gli operatori non finanziari vengono dai notai, quindi il contrasto alla criminalità nel notariato è una priorità. Le mele marce vengono colpite e destituite anche sugli organi da parte degli organi territoriali, e poi i cittadini sono garantiti ancora di più da assicurazioni professionali collettive e fondo di garanzia. Senta, notaio noto, ma mi dice che cosa si dovrebbe contestare a notai perché facessero meglio il loro lavoro? Faccia lei l'autocritica. Comunicare meglio. Purtroppo... Solo comunicare meglio, tutto lì? No, diciamo che abbiamo abituato la gente con un'efficienza media che alla fine rischia paradossalmente di giocarci contro. Noi dobbiamo far vedere che dietro quella che viene dipinta come la parcella del notaio, che può dare anche fastidio a qualcuno, c'è un lavoro importante e c'è un guadagno per il cittadino, per il sistema e anche per i notai per fortuna non ho l'impressione che siano dei poveracci. Questa non è l'impressione della gente. Il lavoro del notaio sembra un lavoro garantitissimo di alto rendimento, va bene, però insomma almeno diciamolo. Però ci tengo a dire che in termini relativi il notaio nella filiera immobiliare societaria nella quale è impegnato è quello che riceve i compensi minori. Cioè dice guadagna poco, secondo lei guadagna, non dico che guadagna poco. Io dico spero che guadagni il giusto in relazione al servizio che dà al cittadino, in termini relativi ricava meno di altri. Voi non volete l'introduzione della firma digitale per l'autenticazione delle start-up nel registro delle imprese, perché? Ma perché le direttive europee chiedono controlli per evitare qualsiasi opacità su chi c'è dietro agli schemi societari. La responsabilità limitata è una conquista dell'imprenditoria, non deve essere un rischio per i cittadini. Sì. E noi crediamo che quindi il rischio di non avere controlli porti invece a una perdita di sicurezza anche di quelle che sono le transazioni societarie. Notaio noto, ancora l'ultima cosa, ma che cosa cambia per voi notai con l'eredità 2.0? Cambia che ancora una volta i notai avranno, spero, mi auguro, ma siamo pronti, la possibilità di dimostrare di essere al passo coi tempi in un paese che sinceramente a livello di digitalizzazione non è all'avanguardia, mentre noi invece stiamo già studiando una piattaforma per governare tutto il sistema di successione europee. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, gli sms, molti non firmati gli sms che riceviamo, però seri e duri contro i notai, la casta non si tocca, basta, non si preoccupi dei cittadini, insomma, forse comunicare per i notai è una cosa importante, l'hanno fatto troppo poco. Cosimo Ferri, sottosegretario al Ministero della Giustizia, buongiorno, ha sentito il vicepresidente dei notai, sono veramente sul piede di guerra, vi preoccupa? No, perché io intanto partirei da cosa unisce il governo e i notai. Che cosa vi unisce? Il presidente Noto parlava del notaio del 2015. Sì. Ebbene, anche il governo vuol lavorare per una nuova figura di notaio, un notaio moderno. E allora riflettiamo, oggi la legge notarile, sapete di che anno è? Del 1913. Quindi noi parliamo di una legge che... Vabbè, e quindi si vuole riformare una legge del 1913, ma i punti di contatto quali sono fra voi e il notaio oggi? I punti di contatto sono quelli intanto in cui il governo crede in un sistema che dia sicurezza e dia affidabilità e quindi grande rispetto per una funzione pubblica quale quella del notaio. E quelli invece di differenza? Ma di differenza che il governo, che poi è stato riconosciuto anche dal vicepresidente Noto, vogliamo incrementare la concorrenza. E lo spirito di questo provvedimento è proprio quello di innovare, di incrementare la concorrenza tra i notai. E ci sono norme specifiche, intanto eliminare il limite degli onorari, perché oggi una città ha 3 o 4 notai a seconda del numero degli abitanti e del limite degli onorari dei repertori medici. E quindi voi cosa volete fare invece? E noi vogliamo togliere questo limite, aumentare il numero dei notai, pensare ai giovani, anche ai giovani notai, ecco, però, eliminare, pensi che nella legge del 1913 c'è un divieto che è quello di fare concorrenza sulla base della riduzione degli onorari. Noi guardiamo al cittadino, quindi oggi un divieto, dire al notaio tu sei fai concorrenza sleale se riduci gli onorari. Per noi va tolto. Ecco, ma dov'è il punto di contrasto? Il punto di contrasto, perché loro l'abbiamo sentito, dicono quello della certezza degli atti, spostare verso le banche le funzioni dei notai, dicono i notai, in America è stato il motore dello scandalo del subprime. Voi questo pericolo lo vedete? Insomma, c'è questo spostamento a favore delle banche? No, assolutamente non c'è. L'intento del governo è quello, lo dicevo prima, di incrementare la concorrenza e di far risparmiare il cittadino, guardare all'utente, guardare al cittadino, il quale deve poter acquistare un garage o una cantina a dei prezzi, anche dal punto di vista degli onorari, bassi. Questo non vuol dire che non si debba garantire la certezza della pubblicità dei registri pubblici. E io quindi lo spostamento verso le banche, cioè una scelta, leggere questo decreto come uno spostamento verso gli interessi delle banche ai danni dei notai, non è vero, è un'interpretazione di parte? No, lo escludo, l'intento del governo è un altro, e come in tutti i provvedimenti il governo ci crede ma è aperto al confronto. Certo. Quindi ben vengano le osservazioni anche del Consiglio Nazionale Notarile, ci confronteremo, il governo come sempre è attento ad ascoltare e anche a modificare laddove nei limiti dell'equilibrio, però la stella polare deve essere sempre quella, al centro il risparmio dei costi. Certo, al centro, ma per esempio le faccio un esempio, gli immobili non si potrebbero negoziare davanti a un funzionario pubblico del catasto che ha tutti i dati degli immobili e i dati fiscali, per esempio, per ridurre le spese? Intanto in questo, sapete, nel nostro sistema intanto esiste la conservatoria che controlla gli atti che vengono fatti dal notaio, e anche quello ha una funzione di garanzia, è un valore. Quindi c'è un controllo che fa il notaio e dobbiamo riconoscerlo, sia preventivo per quanto riguarda le società e l'antiriciclaggio, come è stato riconosciuto prima, sia poi pubblicitario, immobiliare. Quindi quello del funzionario, lei pensi, con le auto è successo così, no? Perché con le auto prima andavi dal notaio a fare il passaggio dell'auto, adesso no. Oggi invece è quello, quindi lo spirito era un po' quello. Ma insomma, quindi con i notai guerra o pace, perché siamo in chiusura? Ma il governo è sempre per non fermarsi di fronte alle riforme, però guardare in modo costruttivo. E quindi vi incontrerete per parlare. Vuole il confronto, ma il confronto però non vuol dire rinunciare a riforme epocali, rinunciare a cambiare quello che non si cambia da decenni, da anni, in questo caso dal 1913. Grazie. Quindi ben vengano tutte le osservazioni, saremo aperti, ma andiamo avanti per l'interesse dell'Italia. Grazie onorevole Ferri, buongiorno. Sara Tardelli continua. Mario, mi pare che è un processo in divenire questo. Ma io no? Dico solo che nel 2012 guadagnavano più di 300.000 euro mediamente notai. È vero che la crisi in questi anni li ha tosati un po', però insomma, sono abbastanza protetti. Va bene, senti, Sara Tardelli continua il suo viaggio alla scoperta dell'Italia che cambia. Sigla. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove nuovi mille. Un solo sogno stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Vedere le cose da un punto di vista diverso, sperimentare, rischiare, è quello che fanno molti italiani per cercare di migliorare la realtà in cui viviamo. Sono i nuovi mille, gli agenti del cambiamento. Danilo Casertano, 38 anni, maestro. Insegni sulla base della pedagogia dei talenti. Ma che cos'è, Danilo? La pedagogia dei talenti è una strada. Una strada che vuole andare a aiutare i ragazzi a, prima di tutto, scoprire il proprio talento. La seconda cosa è coltivarlo. E il terzo è donarlo alla propria comunità, però, in modo da non avere un posto nel mondo e avere il proprio. Però tutto questo va incastrato in un percorso di studio, giusto? Assolutamente sì. La cosa importante per aiutare i bambini a trovare il proprio talento è poi farli sperimentare tutti. Quindi quando parliamo di talenti, per noi ci sono tutte le intelligenze, da quella logico-matematica a quella artistica. E tu dici, se si tira fuori il talento, poi dopo verrà tutto più facile a questi bambini? Assolutamente, possono costruire la propria identità basandosi su un'autostima reale. Danilo, dici che gli insegnanti non dovrebbero essere scelti con un concorso, ma allora come? Sicuramente, come diceva Rosmini, che è stato uno dei padri della libertà di insegnamento, l'insegnante è quello che viene riconosciuto. Ovviamente su un sistema così centralizzato come lo abbiamo adesso è molto difficile, ma nel corso della storia non è sempre stato così. È la comunità che ti riconosce come insegnante, e questa è la comunità dei bambini, la comunità dei genitori e la comunità dei colleghi. Quindi dovrebbero essere selezionati dallo staff della scuola direttamente? Sicuramente su base centralizzata statale come adesso è difficile. Se si tornasse a delle scuole più vicine alle comunità sarebbe va bene. A proposito di formazione degli insegnanti, parli di autoeducazione. Perché ritieni che questo sia molto importante ai fini dell'insegnamento? Perché io, nella mia esperienza quotidiana, vedo troppi adulti frustrati che sono delle persone preparatissime dal punto di vista professionale, in termini di competenze. Però non riescono a trasmetterlo. E soprattutto poi inquinano la relazione perché non sanno relazionarsi con i ragazzi e con i bambini. Ci sono migliaia di insegnanti precari che rischiano di essere esclusi da questa tranche di assunzioni e stanno facendo lo sciopero della fame. È giusto? Assolutamente no. Il problema è che con un sistema così centralizzato è molto difficile, perché ogni volta si spostano numeri troppo grandi e le leve del potere sono in mano a troppe poche persone. Ma il posto fisso per un insegnante è la garanzia di essere un buon insegnante? Secondo me no, io parto da questo concetto che è la sovranità educativa. Il momento in cui i genitori e i bambini delegano qualcuno affinché li guidi in un processo educativo dovrebbe essere una delega diretta e a tempo. A te è capitato? È rinnovabile, ovviamente. Assolutamente sì. Me lo racconti brevemente quando ti hanno chiesto di continuare il percorso educativo con loro, i tuoi studenti? È stato un momento incredibile. Io ho lavorato per una scuola cooperativa che purtroppo l'anno in cui sono arrivato io è fallita. Mi ricordo era una seconda media, noi facevamo una volta a settimana questo tipo di incontro, cioè ragazzi ci mettevamo in cerchio, loro sceglievano un tema, potevano scegliere quello che volevano, io mi mettevo soltanto a mediare. Quel giorno lì mi fanno trovare la porta chiusa, tutti già seduti in cerchio, mi fanno: maestro, noi abbiamo già deciso di cosa vogliamo parlare oggi, abbiamo saputo che la scuola chiude, noi non ci interessa perché e per come, ma vogliamo finire la terza media con te, trova il modo. E l'hai trovato. Cos'è la prima cosa che cambieresti o miglioreresti nel provare a costruire una buona scuola? Secondo me bisogna riuscire a tornare a un livello più locale, di comunità, portare le scuole a un livello più vicino dalle persone. Personalizzarle di più rispetto alla comunità in cui sono inserite. Assolutamente sì. Danilo, nel 2011 hai fondato insieme ad altri colleghi la Community Education. Brevemente, di cosa si tratta? Si tratta di un'esperienza che praticamente mette insieme l'associazione Manes, di cui faccio parte, i servizi sociali del 10° municipio di Roma e l'istituto comprensivo Amendola Puttuso, che si trova vicino all'idroscalo di Ostia. Praticamente significa mettere la scuola al centro di tutti quanti i servizi socio-educativi e assistenziali. Quindi la nostra associazione si è presa in carico i ragazzi pluribocciati, quelli che avevano già abbandonato la scuola, abbiamo dato vita al progetto Maestri di Strada. Contestualmente la scuola ci ha aperto le sue porte e quindi abbiamo potuto cominciare a fare anche una sezione sperimentale dove poter portare una pedagogia, appunto la pedagogia dei talenti. Per chi volesse approfondire l'avventura di Danilo Casertano e della sua pedagogia dei talenti deve digitare www.italiachecambia.org. 800 24 00 24, numero verde 349 238 66, sms naturalmente sulla scuola torneremo, se ne parlerà ancora molto intanto, perché credo che sia il caso, ma ne parleremo anche tra poco. Pubblicità. Mix 24. Tu corri dietro al vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura andar lontano, puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire come se andare lontano fossi uguale a morire, e non c'è niente di strano, ma non posso venire. Che bella, Pietrangelo, allegria oggi, in metropolitana. Eh sì, perché c'era Diogene oggi in metropolitana e cercava dappertutto, e non cercava un enigma, una profondità insondabile, un mistero, cercava ciò che piace alla donna del suo batticuore. Cercava il profumo della notte appena trascorsa, così mi ha spiegato il filosofo, e poi... un'altra bugia ancora da dire, guardando negli occhi lei, pronta a correre nel vento e a volare nelle sue mani. Così mi ha spiegato appunto il filosofo, come nella canzone di Lucio Dalla, cara, perfetta per contare le stelle. E le stelle stamattina erano tutte presenti in metropolitana, erano tutte pronte a prendere posto nella corsa dei vagoni. Ed era appunto quel percorrere la via segreta e sotterranea di un grande amore, cara, di Lucio Dalla. Ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte, anima mia. Allora Mario, oggi siamo ancora a quantitative easing, no? Che cosa? Sì, dai, senti qua. Ci sono un po' di additivi nell'economia, questa canzone, ve la ricordate? Quindi c'è un po' di droga nel sistema, vabbè, la politica ultra espansiva delle banche centrali. In pochi giorni sono stati acquistati 10 miliardi di euro di titoli di Stato. Poi vedremo anche la scomposizione quando la BCE ce lo dirà. Secondo Jens Weidmann, il capo della Bundesbank, però, questo acquisto è totalmente inutile perché secondo lui, in effetti un po' è vero, ma per la Germania la ripresa c'è già, quindi non era necessario. Vedremo come va. Le cose sono però interessanti perché si stanno svegliando gli americani, siccome insomma c'è la parità tra euro e dollaro, quindi i grandi colossi dell'export a stelle e strisce, come dicono a Roma, se stanno a preoccupare. E secondo me ci saranno delle mosse della Federal Reserve molto presto. E i numeri del PIL italiano li conosciamo, però li hai ricordati terribile. Tu a certo, guerra, abbiamo certo. Ricordato anche i dati della pressione fiscale. Zero virgola. Per fortuna, caro Buttafuoco, c'è la buona scuola, che da ieri con le slide, le slide sembravano le slide della scuola mia elementare, via Cesare Battisti a casa. Per farsi capire da tutti. Sì, capito. Cioè, un popolo di ignoranti pensano che ci sia davanti alla TV. La roba. Vabbè, pazienza. Salamino! Salamini, appunto, di riforme dopo la RAI e la scuola. E davanti a una silente Stefania Giannini, che sarebbe per inciso ministro della pubblica istruzione, o si chiama educazione, non so come si chiami adesso, davanti alla silente Stefania Giannini, Matteo Renzi ieri ha presentato la nuova scuola e caro Mario l'ha fatto con le slide in assenza di abbecedario. Non so. Altrimenti si sarebbe esibito nell'acudi quadro. Però no, niente. Allora, 500 euro ai professori, i presidi con più poteri. Però dov'è il trucco del barbatrucco del uomo grande forte illusionista Renzi? Allora, i presidi scelgono i migliori docenti e li premiano. La realtà è un'altra. La realtà è di pochi presidi in gamba e pochi docenti davvero professionali. Pochi e tutti quanti massacrati da anni di mortificazioni attraverso stipendi miserrimi, che ha reso tutta la scuola una scuola di apatici e di demotivati. I presidi poi, lo sanno tutti e dovrebbe conoscere la realtà, impongono, costretti sono a imporre sottilmente le promozioni di massa e favoriscono il proliferare di asini solo perché si perdono le cattedre. Sì. È questa la realtà, signor Primo Ministro. Gli insegnanti hanno avuto lo scatto 50 euro lorde, ma gli arretrati di 3 anni no. E dove li prenderà i soldi il signor Primo Ministro per finanziare questo capolavoro di riforma annunciato in così tanta pompa magna? E Giovanni, tu che conosci la storia, lascio qui appesa agli ascoltatori una perplessità. Solo una. Non si può mai fare la storia in parallelo, però io dico che un uomo solo al comando, noi l'abbiamo già avuto. Si chiamava Benito Mussolini. Accanto a lui avevo un ministro che si chiamava Giovanni Gentile. Che non era e proprio. La cosa che mi ha colpito è la scena di ieri. La silente ministro della pubblica istruzione. È come se Giovanni Gentile fosse stato zitto davanti a Benito Mussolini. Non era né Gentile né Mussolini. Va bene. Ancora una bolla, Mario. Dai. Comunque il DJ lo potrai fare, questo è sicuro. Oramai tutti qui esaltano le scelte musicali. È anche l'imitatore, è anche, ma soprattutto lungo la migliore, un cantante. Lo faremo cantare. Voi vai, finirete così. Io modestamente, da impresario, lo dico. Lo so. Vabbè, finirete così nella giungla. Welcome to the jungle. Comunque, senti un po'. Vabbè, questo era divertente perché abbiamo dato la notizia ieri, no, degli inglesi e degli americani che si stanno un po' litigando. Un pochino, sì. Sulla spesa della difesa. Adesso c'è un altro capitolo interessantissimo, perché gli inglesi, giustamente a mio avviso, cosa fanno? Investono in un veicolo finanziario creato per investire in Asia. Mettono 50 miliardi e gli americani hanno detto che non va bene, perché con la Cina bisogna avere un atteggiamento più duro. Detto dagli americani non i quali non hanno affari con i cinesi. No, si fanno solo comprare i titoli del tesoro, ma questo è un altro paio di maniche. Comunque segnalo che le cose tra il Regno Unito e il cugino di Washington non vanno troppo bene. Che succede? Cosa leggi? No, leggo Gianfranco che dice, che ci scrive, dice: anch'io mi sono accorto che c'è la ripresa da settembre 2014, ho cambiato la macchina, è più grintosa e tutte le mattine quando parto ha veramente una buona ripresa. La grande. Sicuramente non è una Fiat. È difficile. Non lo so. E quindi noi eravamo rimasti alla mia bolla, non so cosa vuoi fare adesso, canzoniere? No, adesso c'è il canzoniere, ma prima do il numero 800240024, numero verde 349-238-6666, l'SMS è canzoniere. Il loro nome è legato alla voce latina Fatum. Destino. Intervengono magicamente nelle vicende degli uomini. Si è detto che le fate sono le più numerose, le più belle e le più indimenticabili. tra le divinità minori. Non sono confinati in una sola regione o in una sola epoca gli antichi greci, gli eschimesi e i pelle rossa. Se indovinate volete chiamare 800 24 00, io non lascio 24 349 238 6666. Io l'ho intervistato, ancora l'ultima bolla. Vai. Stamattina andava così, tutta intro di chitarra. Vabbè, questa è Walk This Way, ve la ricordate, no? Senti, va. Allora, come funziona la competizione nel settore high-tech, caro Giovanni, caro Pietrangelo? Che levo la merce degli altri dal mio scaffale, ovviamente. Certo. Allora, siccome arriva negli scaffali di tutto il mondo il watch, l'orologio di Apple, insomma, e le prime vittime chi sono? Sono il Joe Bonap, per chi si occupa di queste cose so di cosa sto parlando, sono dei device, degli aggeggini, dei gioiellini high-tech che servono a fare sostanzialmente la corsa, misurano tutti i tempi di percorrenza, il battito cardiaco e così via. E anche, tu li usi? Sì, quando andavo a correre. Ah, ecco, no, era una domanda retorica. Va bene, è un anno che non vado a correre, c'ho forza, soprattutto non c'ho tempo, però devo farlo, oggettivamente. Dai. Devo farlo. E insomma, quindi? E anche quello della Nike e così via, il full band è stato tolto. Insomma, praticamente era già successo anche per le cuffie della Bose. E Apple fa sto gioco, quando c'è il suo prodotto, c'è il suo prodotto in negozio e basta. È questo. Vabbè, intanto, in attesa di comprare tutto Apple, come ogni venerdì è arrivato il momento della nostra... Ah no, c'è la pubblicità prima. Mix 24. Ecco, come ogni venerdì, dicevo prima, è arrivato il momento della nostra posta del cuore. E se volete raccontarci i vostri problemi di cuore, mix24@radio24.it. Sara, intanto, oggi chi ci scrive? Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Straordinarie. Prima della lettera che ci ha inviato Sergio, ho il dovere di segnalarvi che sul Corriere della Sera c'è una lettera molto particolare. Fondamentalmente è la lettera di un crasto. Spiega bene tu, Pietrangelo, di cosa sto parlando. Chiama la lettera. Il crasto va da sé, è il maschietto della lumaca, dotato quindi di corna. E si tratta di questo. Antennine. Solitamente il cornuto è l'unico a non sapere la verità della sua condizione. Invece, in questo caso, ci troviamo di fronte a un tale che, essendo cornuto, venendo a conoscenza della sua condizione, l'ha resa pubblica a tutta Italia. Una pagina pagando, del Corriere. Certo, pagando una pagina L'ultima del Corriere. Pagina. Dove racconta tutto di sua moglie, che più che una moglie sembra una pornostar. Sì, l'incipit, ve lo ricordo. Sì, amore mio. Amore mio, per quindi... te farei di tutto e lo sai, e invece tu ti faresti tutti. Ragazzi, micidiali. Il Corriere della Sera, una pagina. Ma una pagina. Non è che c'è un trucco tutto letterario, secondo me è Elena Ferrante, Elena Ferrante che ha scritto sta cosa. Sara, intanto la lettera invece nostra qual è? Premetto che non ho mai permesso che una donna pagasse un conto, un cinema, un taxi. Ah. Per cavalleria, non certo per ricchezza. Oggi, dopo una relazione durata quasi 15 anni, mi trovo mio malgrado tornato su piazza, costretto allo stesso tempo a sorbirmi le lamentele delle donne sulla penuria di maschi e a fare i conti con una legge di mercato, per cui la spesa di un corteggiamento sembra direttamente proporzionale all'avvenenza della corteggiata. Ci sono le belle, e tanto vale tenersi alla larga, perché hanno una specie di radar sotto pelle per evitare la presenza, per rilevare la presenza del contante a chilometri di distanza. Ci sono le graziose, che solitamente si comportano come le belle senza però esserlo. E poi ci sono le brutte, costrette ad accontentarsi. Ma siccome avrebbero voluto anche loro quello coi soldi, a te che non ne hai, la faranno comunque pagare per tutta la vita. A sorpresa, quindi, sono le peggiori di tutte. Per quelli come me, le possibilità si riducono alle graziose, che non si atteggino però a strafighe, una minoranza davvero esigua. ma potrebbero almeno le gentil signore liberarci dalle loro lamentele sulla penuria di maschi e affermare più onestamente che l'unico esemplare di cui è carente la razza è quello coi soldi. Pietrangelo, a te. La questione credo sia di disarmante semplicità. In tutte le vicende di... il termine esatto lo vorrei pulito. Insomma, nell'accoppiamento, è vero, allora l'animale femmina cerca quello più forte, quello più dotato, quello che possa garantire la sopravvivenza e quindi dare ai figli anche un corredo genetico robusto. Non è nostra la cosa. Un tempo era affidato alla forza bruta, un tempo era affidato anche a scelte cavalleresche, appunto di guerra. Adesso che è l'era del denaro, soltanto il denaro. È tutto un problema di Kali Yuga, età oscura. Quando ritorneranno i guerrieri, ritornerà la corte d'amore. Sono d'accordo con Buttafuoco. Bene, allora stiamo tranquilli. Tu, Sara? Ma caro Sergio, cosa posso risponderti? Non vorrei che la barriera dei soldi che ti separa da queste donne fosse un po' un alibi, una scappatoia per non capire cosa magari stai sbagliando con loro. Ad esempio, quando esci con lei, prova a capire cosa le interessa e cosa le fa ridere, oltre ai soldi, ovviamente. Certo, no. Soldi, soldi, soldi, tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Soldi, soldi, ovvero papà... Marina, a proposito di soldi... Oggi c'è l'ultima puntata di questo ciclo di storia dell'economia globale. Come si conclude? Sì, per concludere raccontiamo gli anni 90, l'America di Clinton, quando è iniziato il divario tra finanza ed economia reale. E poi il miracolo asiatico e le prime bolle speculative. A tra poco con Fabrizio Galimberti. Dunque, io ricordo intanto a tutti che Mix 24 torna con le repliche alle 23, lo dico perché ce lo chiedono tantissime. Prima della pubblicità, Mario, c'è ancora una bolla? Sì, rimettiamo Cocaine, perché ci vuole. Non ce l'hai? Peccato, no, perché c'è Tsipras che appena... No, c'è, cosa ecco, ha fatto? Aspetta. Eccola. È adeguata perché Tsipras ha appena detto che è ottimista sulla soluzione della crisi in Grecia. Cioè, come ottimista? Come... Ma non si sa, sai, voglio dire, questi hanno chiesto... C'è stato uno scontro tra Tsipras e Schaub, ma a livello proprio degli insulti. Sì, sì, sì, beh, devo dire... L'ambasciatore greco, no? Sì, abbiamo sentito il giornale... Sembra una pièce teatrale, scusa. La Grecia ha chiesto i danni di guerra alla Germania, sì. Adesso fa morire da ridere. C'è qualcuno che ha detto che la Turchia adesso comincia a chiedere i danni per la guerra di Troia, cioè dai ragazzi... Cioè... E la Sicilia li chiede alla Grecia per Mozia. Appunto, fa un po' ridere tutto. Sembra che stiamo messi molto, molto bene. Male, per cui che la... E noi chiudiamo intanto con Francesco De Gregori e con Povero Me. Mino come un marziano, come un malato, come un mascalzone per le strade di Roma. Vedo passare persone, cani e pretoriani con la sirena. E mi va l'anima in pena, mi viene voglia di menare le mani, mi viene voglia di cambiarmi il cognome. Cammino da sempre sopra i pezzi di vetro. Io non ho mai capito come.